L'altro giorno mi sono svegliato nel cuore della notte, perché capita, insomma, che quando c'hai una certa, ogni tanto durante la notte devi andare a fare un po' di pipì, insomma non c'è niente di male. E con la coda dell'occhio, guardando un po' il cellulare, avevo letto questa notizia, no? Che lì per lì mi aveva un po' colpito, però sapete quando sei proprio un po' nel torpore, no? Poi mi sono riaddormentato praticamente subito, perché comunque ero cotto. E la mattina, mentre stavamo facendo colazione con mia moglie, ascoltando le notizie di Alexa, e insomma alla fine poi è uscito fuori la notizia che Paolo Rossi, calciatore della nazionale, della Juventus, e, insomma era scomparso, era morto, diciamo morto per una malattia che evidentemente, insomma, da tempo un po' lo condizionava. E alla fine è sempre un po' quelle cose un po' strane che ti lasciano un po' così, perché te lo sei sognato, hai pensato che te lo sei sognato, e in quelle notizie del buongiorno di Alexa alla fine ti viene sempre da dire la stessa cosa, ossia buongiorno un cazzo. Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda, o te sputo, che fai? Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Anche se da questa introduzione può sembrare magari la classica puntata mossa, quelle che fanno sulle radio la mattina, oppure che ne so, sui telegiornali, quelle cose tutte un po' strappalacrime, un po' commoventi. In realtà questa è una storia molto personale, no? Che mi piace raccontare, perché in realtà dietro queste storie ci sono altre storie, sono le storie nostre, no? Quelle di noi da ragazzini, e di qualcosa che anche in questa situazione racconta un po' quello che era il mondo che ci circondava, no? Il nostro mondo in qualche maniera. E ci tengo un po' a raccontare questo, perché, e qui lo dico, boh, forse qualcuno lo sa già, no? Però quando ero ragazzino io ero juventino, no? Ero juventino perché mia zia era della Juve, insomma, poi alla fine mia zia era quella che mi faceva i regali, che mi super coccolava, e quindi alla fine quasi come tacito accordo, no? Cioè, nel senso, io ero comunque juventino, ma in realtà poi del pallone non me ne fregava niente. Però è vero pure che io vivevo in un posto, sono nato e cresciuto a Roma, un posto dove nonostante tutto, a livello dei risultati calcistici, sportivi, non ci fosse mai stata questa grande eclatanza, c'era una cosa che io non sopportavo di Roma, dei romani in generale, che di pallone ci capivano solo loro, che gli altri vincevano per culo e loro erano i più forti, che loro capivano di pallone, che sapevano riconoscere i giocatori, e che Paolo Rossi era una pippa. Paolo Rossi era una pippa perché le palle gli sbattevano addosso e finivano dentro la porta. E questa è la cosa che mi ha fatto diventare della Lazio, poi, fondamentalmente. Questo forse non l'ho. Perché cercavo un qualcosa che fosse più vicino a me dell'essere juventino, e che non fosse quel modo di pensare, quel modo di ragionare, no? Quell'approccio dentro. No, perché te mi sa che non l'hai mai visto quelli che sanno giocare a pallone, no? Sapevano tutti giocare a pallone meglio dell'altri. Però poi alla fine comunque erano l'arti quelli che vincevano, che alzavano le coppe. Poi lasciamo perdere i discorsi, le polemiche, le storie dietro, no? E il fatto che dice no perché quelli rubano e via dicendo. E vabbè, ma c'è sempre un motivo dietro una storia, no? Che che ti porti dietro quando tu sei convinto, perché in qualche maniera qualcuno ti ha detto che tu eri quello eletto e alla fine invece non era così, no? Quindi insomma, vabbè, ci sta. E questo è stato un motivo importante per me, perché mi ha fatto cercare, mi ha fatto trovare un qualcosa di diverso in una Roma che di tanti aspetti positivi c'aveva la prepotenza, no? La prepotenza e la prosopopea di pensare di essere comunque i migliori, anche se la storia diceva il contrario. E Paolo Rossi era una pippa. Paolo Rossi della Juve, della Nazionale, era una pippa. Era uno che Paolo Rossi, se non era per Bruno Conti, i gol non li faceva in nazionale. Ma io poi penso sempre una cosa, che questa deve valere un po' per tutti in generale, no? Che sì, ci può anche sta che c'è qualcuno che la vita magari gli dice anche bene, sebbene poi la carriera di Paolo Rossi ci racconta che forse non gli ha mai detto veramente così bene. C'è stato un momento in cui lui ha raggiunto un apice che probabilmente era anche meritato, ma nella vita non arrivi a certi livelli, non arrivi a raggiungere certi risultati se non ci arrivi con la fede, con la convinzione, con la rabbia, con la qualità, col fatto che tu quella cosa sei nato per farla, e non c'è sta niente da fare da questo punto di vista. Devo inventare i Bruno Conti che te pare, però Paolo Rossi è quello che da solo, insieme a tutta la squadra per carità, però da solo ha piegato una nazione, quella nazione che ha comunque avuto l'altrettanta prosopopea di pensare che quella cosa la potevano fare solo loro, che erano comunque anche loro i più forti. Non a caso c'è sempre stato questo collegamento tra il Brasile e le persone che dico io, insomma, no? E questa cosa è una storia piccola, una storia vera, che mi racconta quanto in realtà, ma non è solo una questione legata al calcio, cioè è una questione che possiamo legare a tutto quanto, che quello che ci manca a volte è un po' l'onestà intellettuale di riconoscere che c'è una grandezza dietro ai grandi personaggi, e che non è solo la fortuna o ah, perché sta lì, perché per qua, per quell'altro motivo e via dicendo. E non bisogna farlo quando le persone sono poi decedute, morte, dove allora sì, grandi. A Paolo Rossi, a Paolo Rossi hanno fatte di tutti i colori, hanno dette di tutti i colori in generale, no? E ipocrisia che noi ci riportiamo sempre quando una persona sparisce, no? Scompare. E sta lì e ti dice: no, perché è grande, ricordiamo quando. Io me lo ricordo perché stavo lì, ero ragazzino, e stavamo appiccicati alla televisione. E niente, così. In questa puntata un po' così, un po' breve, perché stamattina ce l'avevo de cose da parlare, però poi alla fine mi è ricapitato l'articolo sotto mano, così allora ho detto: beh, ma sai che c'è? In OGM due settimane fa abbiamo dedicato quasi mezz'ora a Diego Armando Maradona, che per carità per me è stato forse il più grande giocatore di sempre, però ha una cosa così più vicina a noi, più italiana, più personale per quanto mi riguarda, perché Paolo Rossi per me è stato l'inizio della trasformazione. L'inizio della trasformazione di un ragazzino a cui il calcio probabilmente manco gliene fregava più di tanto, e che comunque l'ha attraversato comunque in qualche maniera, fino a diventare una parte importante poi della mia vita. Gli anni dello stadio, dell'abbonamento, della presenza in curva, del litigare per colpa del pallone, no? E tutto è iniziato in uno Juventus-Roma di Coppa Italia, di quando c'avevo, sì e no, 10 anni, 12 anni, 11 anni, in cui la Juve vinse all'Olimpico, un Olimpico strapieno, e dove mio padre portò me e mio fratello vestiti con la maglietta della Roma, ed io ero l'unico che esultava quando segnava Paolo Rossi.